al Galoppo Galoppo, la satira di Stefano Andreoli col suo blog spinoza.it, veramente il blog satirico più cliccato della rete, almeno nel suo quartiere. Stefano Andreoli, un'istantanea proprio veloce di questa settimana, caro Stefano. Siamo in onda, scusami, stavo gorgheggiando, riscaldavo la voce per intonare Nessun Dorma, diciamo con un esito un po' meno piacevole. Sì, prego. Nessun Dorma, scusate, sì. No, non possiamo parlare di quel che sappiamo, quindi andiamo avanti. Borghezio malmenato in Svizzera. Tipo, non so, vorrei, letto, sì, la notizia, sì, ho letto. È stato in Svizzera, pare che gli urlassero sporco comunitario. È veramente un contrappasso notevole. Gli svizzeri erano neutrali da 500 anni e per la prima volta Borghezio ha avuto un risultato, sì. Perdere le staffe. Niente tradizione per Battisti. Per punizione gli manderemo anche Baglioni. Ecco, così direi che la punizione è completa. Sempre più veloce, batterio killer, analizzato dagli scienziati. Si tratta di un ceppo nuovo, altamente tossico, ma per adesso ha smentito che si candiderà alle primarie del PDL. Meno male. Ancora sì. Pare che non accadrà. Ricevuto oggi, proprio quest'oggi in Vaticano, Walter, gay, rom e musulmano. Sì, è vero, è bella storia. È il vice sindaco di Pisapia, ne ha preso uno proprio che... Che riunisse un po' tutte... Incarnasse un po' tutto. Vorrei mandare un bacio a Monica, la soprano che prima ci ha lietato, e chiuderei con questo... spinoso caso del calcio scommesse. Attenzione con la mannaia, Pietro. Sì. Il Kodakons chiede, ho tre battutine veloci, il Kodakons chiede di rigiocare le gare truccate. Sì. Quindi quest'estate ci godremo tre o quattro campionati interi, tutti quest'estate. Bisognerà un po' organizzare i calendari, ma Beppe Signori, lato positivo della vicenda, Beppe Signori potrà dimostrare ancora quanto vale con la palla al piede. Direi che posso chiudere dicendo che, appunto, la sintesi di questa inchiesta: essere pagati per ostacolare la propria squadra è reato, a meno che tu non sia il direttore del TG1. Molto bene, via! E la vannoia, mai troppo presto, diciamo, per il nostro Stefano Andreoli.